Aspetta, Ronaldo. Ronaldo. Ah. Ronaldo non c'è. Sono io, sono CR7. Ho gli stessi soldi di lui. Uguale, uguale. Tu sei a strisce strette, non CR7. Vabbè. Allora, Claudius, mi stavo mettendo a posto un po' fornelletti, fornellini, sperando che questa primavera si faccia qualcosa. È estate. L'attrezzatura già sono a posto. L'attrezzatura ne abbiamo anche troppa, noi che non la usiamo. Stavo chiamando Ronaldo, la mafia Giulio, ma ce l'ha, c'è qualche partita, Bayer, boh, qualcosa da qualche parte, ma forse su DAZN, boh, o su Sky, non lo so, vabbè, comunque non mi interessa, no? Io sono entrato poco fa, fatto la luce, adesso mi sono seduto un po' qua in radio, in campagna. Ieri ho acceso una certa ora, tipo 7:15, ma non c'era nessuno in nessun canale, né in PMR mi pare, né proprio zero totale. E chi può va in campagna, capito? Anche mia zia ieri è andata in campagna, diciamo, stava per chiederci se andavamo, ma come ha sentito le voci nostre, poi, ma manco per le scatole mi sarei mosso. Ma lascia perdere. Io ieri sera poi, quando sono uscito in campagna, perché siamo scesi, abbiamo preso le pizze, giù, sono passato al canale che mia figlia, c'era la strada bloccata verso le 9, così. Vedete, c'era un incidente mortale, proprio lì di fronte alle vele. Io dovevo andare lì a prendere le pizze e ci abbiamo dovuto lasciare la macchina in fondo e andare a pizze, perché non si poteva passare, c'era la strada bloccata. Ma che mai incidente, minchia! Mortale. Io ho letto che era morto un 37enne, ma zona canica, può essere. Sto sbagliando io. Sì, canica, dove passo io per avere la Monteoro? Certo, lì. No, 27enne, no 37enne. 36 anni è quello che stava guidando, lui era a fianco. Capito? 27 anni. Infatti c'era la tua coperta, c'era il vigile del fuoco, la stradale, la strada bloccata. E niente, dunque questa mattina sono andato, ho visto che c'era tutto tracciato, tutto segnato, un casino, c'erano i fiori, ai ai ai, che bordello. No, guarda che ieri sera io c'avevo il ricevitore acceso e c'era Gianni nel canale 20, verso lei, forse le 8 sono state, boh, qualcosa del genere. Vabbè, no, io avevo la 10, il canale 10 come monitor, per cui non, ho spazzolato all'inizio alle 7:15, forse, non mi ricordo l'ora giusta. E poi c'erano tutti in campagna. Chi può, insomma. E io c'è un problema grosso a dormire, non lo so cosa mi sta prendendo. Io sto passando tutte le notti in bianco, mi addormento all'alba e dormo la mattina. Non c'è pillola che tenga. Non so cosa fare, guarda. Vabbè, qualcosa che... Qualcosa, qualche strascico di qualcosa, cioè... No, siamo rientrati a mezzanotte e mezza. Poi a quell'ora c'avevo la... ricevitore acceso, e ho sentito c'era gente, c'era Gianni con, non mi ricordo chi era, canale 20, adesso le 8, prima di 10, le 8, non so, prima le 8 comunque, vabbè, non abbiamo scelto lì, poi due notte e mezza, siamo andati via, questa mattina sono tornato, non c'erano delle cose da fare dalla mia parte, non dalla parte di mia figlia. Va bene, va bene. Quindi, sentiamo dopo di fare qualcosa? Io attendo istruzioni, vediamo se mi è contatta qualcuno, se telefona Ivan per pigliarci un caffè, vediamo, dai. Naturalmente io così se chiama un istintino la faccio, se no. Eia. Va bene, tanta attrezzatura però poi non si usa mai. Beh, tutta roba piccola mi, più per uno, per due. Fornelli ne ho di tutte le misure, sempre da campeggio, da uno che sta nel palmo della mano, nel palmo, proprio un attimino, mi pare che si chiami BRS 11, si usa di, con quelle bombolette a vite, però a vite, quella della Decathlon. Sì, 11 è praticamente il fornellino piccolo della cucina, una cosa del genere, giusto per fare un caffettino, la caffettiera da uno. Quello serviva. Va bene, dai, liberati di queste cosette. Io tanto adesso vado in cucina che ho fatto un po' di cose di ieri, la campagna, sempre esagerati. C'è anche un pesce grande, adesso vediamo se mia figlia è arrivata poco fa anche lei. Vediamo cosa vogliamo fare. Ok, dai, sentiamo dopo, io lascio acceso qua. Se entra qualcuno ci sono, io sono qua su 10, non vado a spazzolare a nessuna parte, io sono qua alle 10. Chiamate e io vi rispondo, ok? Eia. Sì, già. Ma sono qua, c'è questa cosa di battuta, no? Tu quando campeggio ne hai mai fatto? Sì, immagino di sì. O quando si andava al mare, cioè cucinavate qualcosa al volo? No, beh, quando ero ragazzo io si andava al mare, ci portava la roba pronta, stava tutta la sera a cucinare, ci portava la roba pronta. Però il campeggio l'ho visto come, già ho lavorato nella zona dei campeggi quando ero ragazzo, quindi vedevo questi fornellini piccolini, queste cose. No, perché io ancora non ho deciso qual è la soluzione migliore, se io mi voglio cucinare una cosa per uno, per due, un riso, una pasta, qualsiasi cosa, no? Adesso ho delle pentoline che sono in alluminio, però l'alluminio è leggero e tende a attaccarsi, non un po' la roba se usi fiamma alta, cioè lo devi sempre girare, no? Però sai, leggero. Poi ci sarebbe questo qua, amico, questa confezione di pentoline sempre piccole, tutta dimensioni piccole proprio da zaino, no? Sono in alluminio anodizzato, che dovrebbe essere un po' antiaderente, no? Ed è di color grigio ferro, no? Sembra, non è l'antiaderente delle pentole, quello nero, no? È alluminio anodizzato e già attacca un po' meno, no? È leggero, quello che vuoi. Però certi continuano a preferire pentoline da campeggio in acciaio inossidabile. Sì, si attacca un po' la roba, però non si deforma. Se prendi un colpo quell'alluminio si storce, si deforma. Poi questo anodizzato cinese, che ne so io se fa bene la salute, c'è un odore un po' particolare, no? Perché è nuovo ancora. Insomma, qualcuno preferisce acciaio inox, proprio il più puro, il più... La roba te la giri tu col mestolo, non lo fai attaccare. Qualcuno continua a preferire acciaio inox, nonostante sia molto più pesante anche da trasportare, parità di dimensioni. Beh, è più affidabile, Marco, l'alluminio si deforma, scalda, sì, però se c'è una piazza di alluminio per fare bistecche, alla fine si è tutta deformata dal calore. Va bene, dai, sentiamoci tra una decina di minuti, fai quello che devi fare. Io mi allontano un attimo, voglio vedere cosa mangiamo la stanotte, dai. Ci sentiamo tra una decina di minuti, ok? Ehi, fai Claudio, dai, dopo nel caso. Ciao. Dai, acceso qua, già chiamo io, sentiamo dopo. Ehi, eccomi qua. Beh, CR7, aspetto CR7. Hola. Buonasera Claudio. Poi Gianni Rubrofretta, com'è? Ancora acciaccato sono. E che cosa ti è successo? Che giudici? Oggi ho pigliato mezzo marano, quindi sono ancora un po' storto. Oh, proprio influenza brutta? Dolori, articolazioni, un po' gare da basinetta, sono ancora un po' così. Tempo suo, vedi, calato il tempo, nel senso che le temperature sono molto più basse, stamattina c'era un po' di freschetto, però io ero movimento in campagna, quindi nessun problema, c'era anche Marco, si è allontanato un attimo, anch'io sono dovuto allontanare perché volevo capire cosa c'era da preparare, perché abbiamo fatto un sacco di roba da ieri e quindi stavamo decidendo cosa fare. Bene. Quindi Marcolino c'è ancora o si è spostato? No, ci dovrebbe essere, stava sistemando un po' l'armadietto, anche lui stava facendo qualche cosetta. Bene, Marco ci sei? Marco Condor? Mi sa che sta mangiando. No, che lo so, 7:20 forse già in fase di preparazione lui, sicuramente. Sono passato sul 20, io stavo sentendo gente modulando. Beh, anche lì c'è una ruota di persone che fanno questioni. No, io sono qua, io non sposto nessuna parte. Qualche volta ho salutato sul 23, perché appunto c'era gente che mi interessava salutare, ma io sto qua, il mio canale è qua, io ho un canale solo, canale 10. Bene. Della truppa non si è fatto vivo nessuno? Non lo so, stavo chiamando a CR7, a Giulio, e invece deve essere sta seguendo qualche partita, perché so che mi pare oggi sia qualche partita, Bayer, qualcosa, e domani, cioè c'è la Champions League da oggi, sino mercoledì, giovedì mi pare. Quindi lui è appassionato come me, però io mi sto facendo il culo e altre cose, non ha giocato di stare seduto a guardarmi la TV, sto finendo altre cose, io maggio mi voglio trasferire. Bene, insomma, cazzo, pallone ogni di fai, così è. Ieri giornata di sabato, giornata di calcio, in campagna abbiamo due televisori grandi, una parte tutti maschi a vedere le partite, l'altra parte le donne a seguire Barbara D'Urso e quella zoccola che c'è a Rai 1, capito? Ci dividiamo un po', poi arrivi a casa a torre, mio, qua, c'ho la TV qua, io ho messo una TV a parete, da 40 pollici qua nella sala radio, e mi sto guardando Guerriero, quel programma appunto di animali, di cose. E loro, cosa stanno guardando? Ah, quell'altra zoccola di Barbara D'Urso. Mamma mia, che tristezza. Mamma mia, meglio niente. Giulio starà facendo overdose di football e telecronache varie. Giulio! Ehi, già entra, sicuramente per te c'è qualche partita. No, mia moglie e mia figlia hanno anche il numero di telefono di Maria De Filippi, di Barbara D'Urso, capito? Di Mara Venier, per carità. Un indovena mi farei per non vedere loro, che gente squallida, per carità. Vi manca solo che andate, c'è posta per te e siete a posto. A me non mi chiamate perché non mi presento. Mamma mia. Non so cosa dirti. Te l'hai vista la gara ieri, la MotoGP? Sì, l'ho vista. E infatti ci dividiamo un po', dai. MotoGP, Formula 1, calcio. E loro non fanno altro che guardare queste tre zoccole. La canale 5, la Rai, Baccarì, dai. Anche tua madre Marco è così. A posto, Gemmo. Anche per te ci vuole la puntura. Buonasera Gianni, mi sembra. Sì, lì si guarda, vabbè, la D'Urso ancora, ma questa è la dei Filippi, non mi piace a me sta roba, tutto pianisteo. Poi c'è bisogno di andare in TV, di spiattellare i propri cavoli, cioè se uno vuole riappacificarsi con un familiare, fatelo in privato, no? Vabbè. comunque io l'ho sempre detto, alla D'Urso una bottarella ci starebbe bene. Mi stanno piacendo le MILF a me, e Cougar MILF, come le vuoi chiamare, quelle da 3,40 e 50, anche di più, anche 60 se ce la fanno. Sì, se non ti muoviono sotto le armi. La Barbara D'Urso può essere, a me mi è antipatica, però c'è un colpicino non male, alla mia età. Vabbè, Maraveniere, la carità, manco lavorare per te dalla premessa. Poi senza parlare Maria De Filippi, è un colpo di mangagliò e gli avrei addrizzato subito le gambe. Vai già. Ciao Marco, ben entrato. In certi casi ci vuole il caccia copertone, quello grande, quello che usano per smontare le gomme ai trattori. Oh yeah. Vabbè, comunque la D'Urso, io mi ricordo che ai tempi nell'80, no, c'erano quei giornaletti per uomini, Blitz, Coso, e lei era nuda, anche questi giornaletti, usciva nuda quando era giovane là, io credo che fosse molto più bacchettone, invece già era una malandrina la D'Urso. Ancora si tiene bene, certo in TV, sai, con le luci da studio, se la vedi struccata, ho visto una foto struccata presa così a tradimento, ma come la giù mai mi fa un taglio, però con le luci giuste già si può. No, la De Filippi invece, la De Filippi è introvabile personalmente, perché come penso a lei penso a Costanzo e mi vengono i brividi qua. Quanto serio, mamma mia, c'è una voce da uomo. E come anche il marito, perché dai, sono due personaggi che sono talmente colti perché hanno una cultura allucinante. Ma sono Lucifei, tutti e due, buoni biliardi, lampati in piscina con la bredda, in modo che non nazziano in più, vai già. Vabbè, come direbbe, direbbe un mio amico, oh, certa gente non è pisellabile, quindi meglio al museo delle cere. Pisellabile, è bello, questo voglio copiarlo, questo modo di dire, meglio, vabbè, dai. Bene, bene. Ho messo a posto tutto Claudio con le due cosette che avevo tolto e è così. Oh già, e tu di campeggio eri appassionato oppure? No, campeggio l'ho fatto, quello campeggio l'ho fatto un paio di volte. Non sono mai stato un grande frequentatore di campeggi. Una volta quando sono andato in Corsica in moto, una settimana, mi sono portato la tenda, quella è forse l'unico ricordo, l'unica cosa, l'unico campeggio serio che ho fatto, poi per il resto sì, ma roba più leggera, cioè, stare magari una notte fuori, magari tanti anni fa quando c'erano determinati motoraduni che si rimaneva fuori a dormire, allora si portava la tenda e si partiva le domani mattina, poi per il resto niente, abbastanza insomma, non sono stato mai un grandissimo campeggiatore da quel punto di vista. Avanti Cra. No, ma neanche io, assolutamente, c'era mia sorella che aveva il coso, la Lolotta, allora del Tintino, la Croce di Donna, lì con le donne lì, andavamo a trovarla ma non c'è mai dormito perché non mi interessava, stavamo tutto il giorno lì, era più quello che si mangiava, si beveva, che i bagni che ti facevi, era un disastro, però si era giovani e si faceva di tutto, mi andavo spesso in moto con mia moglie, che io avevo 20 anni quando ho conosciuto mia moglie, quindi andavamo in moto, rimanevamo lì e poi ce ne salivamo. No, a campeggio no. È come se stai dormendo in terra, mamma mia, cosa vera, però no, vedevo, cioè, quello che usavano, quello che facevano, poi solo il discorso acqua, anche di giorno andare a sentire, con il bidone dell'acqua, a prendere l'acqua, c'era nel campeggio per travagliare, ma non ti n'ha. Che poi, aspetta che mi spiego meglio, cioè il campeggio intendo io, non nei campeggi organizzati, no, voi che devi stare gomito a gomito. A me il campeggio piaceva abusivo, cioè in zone anche vietate, non che devi stare con, capito, non il campeggio organizzato che è poi un lager, tipo, la riposa, il coso, no, no, no, trovare un punto poco osservato dall'esterno, capito, poco, che non sia molto visibile da passanti, da eventuali strade, stradine, no? Così campeggio alla selvaggia, a me. Se è necessario ti cucini lì, certo, in tenda, anch'io dormo male, vabbè che io non sto dormendo nemmeno a letto, quindi il problema non si pone più ormai. Purtroppo però tutto vietato, se provi la forestale ti fa storie, il minimo che ti può dire è di sgomberare, il minimo che ti può dire, capito? Se trovi il tipo ti fa la multa pure, per una notte mi puoi magari, non dico di stare giorni, ma visitare un giorno, pernottare, così lì, una volta quando ancora ce la facevo. Che adesso ce la faccio, non è che tutto vietato, non puoi accendere un fuoco, ma manco fornelletto puoi accendere, per quanto sia controllatissimo, no, dicono sono sempre fiamme libere, bla bla bla, e tutto vietato, stiamo diventando un regime, tutto vietato, non puoi fare una buca a terra che ti danno, come hanno fatto una, danno ambientale, migliaia di euro di multa, come se la sabbia spostata di pochi centimetri non potesse essere rimessa al suo posto. Ma questi stanno impazzendo, questi stanno impazzendo, questi lo fanno per rubare i soldi. Allora che era uscito sul giornale, i bambini avevano fatto una buca con la pala sulla sabbia, una buca, avevano spostato la sabbia di mezzo metro, arriva lì la forestale o chi era, danno ambientale, cosa, mamma che siete. Se ci fossi stato io l'avrei detto, guardi, guardi, io prendo la paletta, la sabbia la rimetto a posto e dove sarebbe il danno ambientale? Stiamo inventando proprio quello che era libero decenni fa e tutto vietato, non fare più niente. Vai Gianni. Ho capito. Ho capito l'episodio che hai citato, mi ricordo. C'era una portata, andiamo avanti. Buonasera, non era una portata, mi ha fatto prendere. Non c'era andato più lungo. Ma adesso quando parlo a cibo si possono lanciare in alto, perché sto tutto in alto, in terra, un animale, quali? Già, aspetta che alzo il volume. Cosa non ci possono lanciare? Palloncini di una città danno quei vinti perché dice che sono altamente inquinati, quando cadono in mare, quando cadono, no, che sputano, che cadono in mare o cadono in terra, dice che gli animali si potrebbero mangiare, che sono inquinati, che sono inquinati. Vabbè, però allora è inutile che stiano a rompere le balle al singolo, no? Montoni per 1000, 2000, 3000 euro per fesserie. Allora controllate le grandi industrie, vedete cosa buttano in mare, cosa tutto buttano, e fate milioni di euro di multa a quelli, non rompere le balle sempre al privato. Te l'ho detto, tutte, anche lo Stato, gli organi di controllo, sono forti con i deboli, deboli con i forti, e sempre così sarà. Fanno schifo, fanno, a volte mi fanno ridere certe cose. Vabbè, c'è gente anche che prende sabbia di mare, quello non è nemmeno corretto, un sacchettino di sabbia di mare, ma pene draconiane, danno ambientale, cose, il penale, ma chi siedi? Stanno impazzendo, stanno. Basta intimare di mettere la sabbia al suo posto e alla prossima multa, ma una multa. Ok, che devi bruciarti un mese di stipendio per pagarti una multa, un po' di sabbia cagazza, scusate il termine, quando me lo tirano, vabbè, passi la sabbia rosa di Budelio, di dov'è, no, che rara, ma anche a Platamonami, se poi alla Pelosa ti controllano i quando esci dalla spiaggia ti controllano quanti granelli hai attaccati ai piedi. Non posso scantonare più di tanto, vai doppio rupo. Sì, ma non è così. Io mi ricordo mio padre che aveva preso un sacco di sabbia, un sacchetto di sabbia, lo metteva a scaldare al sole, poi se lo metteva nella schiena per i due, cioè ti faceva bene. Se lo fai adesso qua. Ehi, o se vai a tagliare un rametto, che ne so. Ehi, sanno. Poi tutto per soldi, mi è tutto per soldi. Per fare multe, per fare cassa, non c'entra niente danno ambientale, ui. E allora quei poligoni di tiro militari che tu proiettili di uranio impoverito e altre porcherie. Ah, Quirra, cos'è? Quella zona lì, ui. Stanno a controllare il singolo, stanno a controllare. Ti contano quello che butti, se hai sbagliato a mettere un pezzo di cartone nella plastica, multa, quelle cose lì, lui, non perdere. Adesso col porta a porta ci romperanno ancora più le palle, me. Oh, ma una volta Cristino, che faceva il cimitero, c'è una finestra dove si fanno a mangiare, e sono passati tutti in un bar. Vabbè, loro si devono sempre fare l'osservazione per far vedere che stanno lavorando, no? Comunque io non ho mai lasciato neanche un cappello, sai, né al mare, né Pinetta, nulla. Io ho buste, volgarissime buste, tutto, ogni tappo, ogni bustina, tutto, non lascio un cappello. Invece c'è gente che lascia bottiglie di birra, piatti, scatolette, ma proprio deliberatamente buttati in terra, me. E non sono tutti turisti a futidini, i turisti vengono in estate, questi sono i sassaresi che vanno a birre e se ne fregano, e poi per pochi ci perdono tutti, perché se per sbaglio ti dimentichi una cosa minima ti fanno uno scandalo. Claudio, non c'ho ragione. No, io mi ricordo quando eravamo ragazzi, era così, era sempre così, le spiagge facevano schifo, soprattutto lì noi andavamo, lì era Arena Reda, era uno schifo, poi le cose sono cambiate. Per quanto riguarda la sabbia, ho assistito io personalmente quando lavoravo a Santa Teresa, lì era Maiore, uno, io l'ho visto perché ero lì che stavo parlando, insomma c'era un lavoro che stavamo facendo nel lato della strada, lì fuori, vabbè, della spiaggia. E questo è andato alla macchina, ha preso un sacchettino di quelli bianchi piccolini di Yuga, l'ha riempito di sabbia. Ah, io ho visto che stava riempito di sabbia, però pensavo stava facendo qualche zavorra per qualcosa lì, cioè si fa l'attaccare l'ombrellone e poi la svuoti. Invece salito e se l'ha portata in macchina. Sono passati neanche mezz'ora, sono arrivati i vigili urbani, evidentemente qualcuno li ha avvisati. L'hanno portato via, l'hanno. L'hanno portato al comando di Arzachena. Poi che cosa è successo non lo so. Cioè, non si può condannare uno con un sacchettino di sabbia. Che cosa sta facendo? Sono delle leggi che non capisco. Vabbè, certo, se tutti facessero così, però quella è la scusa loro, no? Se tutti facessero così, ho detto sì, ma siccome non tutti fanno così, il problema non si pone, sai, capì? Ma vai a ragionare, eh? Non voglio dire, no, ma io quelli che sbattono i tacchi, che obbediscono gli ordini, li considero sempre ottusi. Poi io non è che con le divise vada tanto d'accordo, mi viene l'orticaria quando vedo una divisa, non so se mi spiego, vai Lubrofetto. Vai, diciamo che il buon senso senso è una di quelle qualità che ormai insomma molti hanno perso, quindi è di lì molta gente, soprattutto le istituzioni, sanno che la natura dell'uomo è fatta in un certo modo e quindi ci vanno a nozze, capito? Quindi niente, è tutta una bucaria. Poi personalmente mi ricordo quando si andava in greppa al mare, avevamo le nostre buste a disposizione che puntualmente mollavamo, insomma scaricavamo nei punti dove era consentito scaricare, e quindi la coscienza ce la siamo sempre tenuta pulita. Poi chiaramente dà fastidio vedere comportamenti assolutamente incivili di altri, insomma. Progaridale, avanti già, mi hai sentito comunque? Ciao, che si fa di ciao, grazie. Il problema è che molta gente fa le busse e poi le ha prese agli altri, il capitello con vasco, qui tutti, in qualche punto, quando siamo andati in Cineca a mangiare, siamo con vasco, ma non sono lì anche al Cheno, a cerca da buco. Se tutti ha preso il rapido, ma fanno le buste per invece di buttarle per caricarsene in macchina, e ti dirò di più sempre, io provo perché ho sempre quello che mi devo caricare, la moneta vostra, la moneta anche dei bianchi che compravamo insieme ad altre persone, anche loro facevano moneta e me la mettevo su firma, infatti avevo il letto e ogni volta tocca a me a portarla, nessuno si prende mai la via di prendersi la moneta. Poi mi prendevo sempre questo nome io perché mi dava fastidio. Poi io, sai, siccome spesso non trovi punti di raccolta per la spazzatura, io me la porto via, la porto a casa, la butto qui a Cassonizzi. Tanto capirai che fatica a portarci via una bustina con due piatti di plastica usati, con l'una lattina, una bottiglia vuota. Poi anche in spiaggia, una volta ben lontano dalla finezza, certo. Io c'era il focherello di notte, stava intorno, la chitarra, così. Adesso guai a accendere un focherello in spiaggia, non sia che la sabbia o il mare possano pigliare fuoco. Poi magari chiedi quando ti contestano, ho detto, ma qual è il senso logico? Perché è vietato, non è che ti dicono... È vietato e buono, non ci sono ragioni, vietato, punto. E quindi, come ho detto l'altro giorno, il suddito deve obbedire. No? Dopo tutta questa discussione io mi scaldo la frittata, dai, riprendete voi. Che potrebbe essere praticamente un segnale di pericolo? Potrebbero praticamente allarmare forse le crudine, eccetera, eccetera. Sì, è proprio così. È proprio così. Perché dove stavamo pulendo noi lì, che abbiamo bruciato tutta la così degli alberi, insomma, tutta la bracca, lì a Monteoro è venuta la forestale. Poi noi eravamo all'interno col cancello chiuso, poi io ci avevo già la manichetta dell'acqua vicino, visto che l'avevamo organizzato, sono avvicinato al cancello, ci si può titolare, sono avvicinato e mi ha detto l'autorizzazione per bruciare ce l'avete, tutta l'autorizzazione per bruciare, anche nuvoloso, avevo un freddo gani, sta per piovere e dice ci vuole l'autorizzazione, perché siamo in un centro abitato, dice, non siamo in campagna aperta. Qui c'è l'autorizzazione. Lei ce l'ha l'autorizzazione? No, io non c'ho niente. La casa è chi? La mia. E come mai fate la contravenzione? Capito? Ecco, per questa volta passa, rimanete davanti, che poi stava quasi finendo. Era roba di... Ho fatto un po' di rame di alberi, dai, un po' di foglie secche, eccetera. Non detto non ce n'era, il fumo era bello bianco, pulito. E come mai mi dite cosa? Mi fa la una fiammiziana perché non c'avevo il permesso. Pensavo che si potesse bruciare normalmente nel periodo invernale. Oh Claudio, mia zia ha sempre bruciato. E lì è tutto centro abitato, cioè ci sono villette ovunque, non ci sono zone isolate. Ma lì sempre ha fatto ben lontano da piante, da tutto. No, faceva la linea rompifuoco, come si chiama, bruciava stoppie, ma anche baraccelli. Ah, scusa, Ivan me l'ha detto, si può bruciare in certi periodi. Anche Ivan non mi ha detto, non mi ha parlato assolutamente di autorizzazioni. Non mi ha parlato di autorizzazioni, manco per niente. E lì lo fanno per i soldi, sono dei figli di bagassami, lo fanno per i soldi, quelli, poi quelli là non ne parliamo, quelli sono ancora più rompiglioni. Sì, ma infatti stavo per chiamare Ivan proprio per chiedere informazioni, poi ho visto che non hanno fatto niente, vabbè, guardi, non lo sapevo, però non ho visto che eravamo organizzati, no, era nel piazzale, in cemento, ci ho messo poi più a pulire la cenere, raccogliere tutto, a mettere nei sacchetti, per buttarla via che a bruciare la roba, 10 minuti, un quarto d'ora proprio, una fiamma alta, fumo, eccetera, poi si è abbassata, però eravamo lì. Mio genio non c'era già a comprare l'acqua, pronti, aveva la carriola, la pala, insomma, stavano organizzati. Se non si poteva bruciare perché non so quanti metri bisogna stare dalle abitazioni, di cui il camesori, no, forestale, a Monte Oro, a Monte Oro non arriva la forestale, guarda io incrocio la camionetta, un giorno sì, un giorno no, che salgono, che scendo, entrano da sotto, fanno il giro da coso, dalla Landriga, tornano a scendere, carica, sempre in Chiviso. Non ho capito, forse perché è zona alta, hanno qualche vedetta di controllo sicuramente, se no non ho capito cosa cacchio ci fanno. Vabbè. Ricambio per Eugenio, ciao Eugenio, sono io, Marco, Gianni Rubloffetta e Gianni Doppio Rum. Avanti Eugenio. Lo so, si fuma, infatti noi ce la stavamo fumando oggi. Dipende dall'erba però. Ha fatto questi discorsi. Frate, accendi il cannone. Fuma il piacere. Io non fumo nemmeno l'erba, manco fumo. Ui. Io sono messo male con il pillolame lì, tutta roba, io praticamente sono un drogato socialmente accettato, capito? Ciao a tutti. Buonasera, Salvatore. Ciao carissimi, buonasera a tutti quanti. E dove sarà tutti, Salvatore? Oh, mi sono fatto un dipolino per smettere qua negli 11 metri, perché come ti ho detto ho abbassato tutto quanto per fare i lavori e quindi volevo trovare il sistema per trasmettere comunque e allora mi sono organizzato così. Chi è entrato? Salvatore chi? Salvatore, io lo porto come Salvatore. Radio Amatore, dai, San Francesco. Ah, Salvatore, non capivo, arrivo basso qua, ma poi l'avevo riconosciuto. Mi senti, Salvatore? Ehi, Atla, sì. Sto andando con un dipolo. L'unica possibilità che mi era rimasta era trasmettere da qualche parte. Ho organizzato un dipolo per gli 11 metri, quindi ti arriverò marzo sotto i tacchi di sicuro, per cui mi sono esposto solamente verso nord, verso Gianni per intenderci, non dalla sua parte. Qua c'è 9 critici. E vabbè, attaccato a te, no, qua è Santiago 8, 9, sì, basso, però non ti avevo riconosciuto, dai. Ok, guarda Gianni ti ha mandato due foto, ultima arrivata, porca miseria, non so mai cosa fare, ogni tanto mi viene qualche flash, un amico che la stava dando, proprio a due lire, nuovo, 6.000 km, guarda, così ce l'abbiamo con l'estate, e l'altro lo stava a mio fratello, Va bene, avanti Gianni lo profeta, anche tu lo dovresti sentire bene perché è vicino a te Salvatore. Eia, ben sentito Salvatore, qua arrivi bene, anche la radio è buona, nonostante il dipolo. Un saluto a Eugenio, da Sassari, ti dai a Pusciudorra, un abbraccio, ben sentito anche a te Salvatore. Niente, sì, va, Salvatore, Eugenio voglio dire. Comunque, ben sentiti entrambi. Niente, qua Eugenio arriva un po' così, però considerando la distanza va più che bene. Ottimo e abbondante, come si dice. Pensi che faccio girare, là. Avanti, doppio rum. Claudio, cos'è un 750 questo qua? Bella. No, 600, vuoi fare 600, l'ultimo che hanno fatto. Quattro cilindri, bellissimo. Oh, ma oh, sempre più tempi, sì, via da te. Sì, già, un'occasione era. Eugenio, va. Un'occasione era, mi ha tentato troppo, capito? Questo era interessante. Mio fratello, l'anno scorso lo prendo nelle spalle. Dammi la moto, e poi vabbè, ho fatto a lui. Quella che ci ha preso Kawasaki 600 lo stesso, e non ci ho preso questo è un Honda WFR 600 4 cilindri, bellissimo, santa bella, comoda a guidare anche stamattina sono uscito, cazzo, ma per avredo adesso vediamo se domani fa bella giornata la uso. Avanti Genio, lo senti a Salvatore? No, ce l'ho già avuto io, però avevo il 750, era bianco, tanti anni fa, poi vabbè avevo l'Hornet 2 anni fa, non so, ma c'è Provetto, ne ho avuto tante, questa occasione è bellissima, non so se la conosci, il 4 cilindri, molto molto bella, due lire già, 3.000 euro già, una moto costa un sacco di soldi, siccome è partito fuori e quindi si vivono soldi. Mi ha detto, ma vero Gio Buffolini? No, per te è davvero, mica non te ne lo fiume. È venuto la tesciola io a fare il passaggio, siamo andati a Lacci direttamente, che c'è un amico, ci ha fatto il passaggio subito prima che ci abbia idea. Ok, la mazza te ne scenda? No, adesso sto bene in questo periodo, veramente già, sto muovendo bene. Sono sceso anche un po' di chili, 6-7 chili, non mi tocca manco la pancia al serbatoio, vabbè. No, è bella da guidare perché non è bassa, capito? Molto bella. È un bolide, minchia, 4 cilindri. La conosci tu oggi quella moto? No, questa è grigia, c'era anche nera, questa è grigia. Sì, 750 la bestia, però questa è anche più leggera, molto bella, molto bella, nuova, molto bella. Vabbè, 750 però l'ho avuto tanti anni fa, l'altro della Honda era l'Hornet 600 lo stesso, quello 3-4 anni fa già forse, non so, non me lo ricordo, vabbè no, era via Pasqua, forse di più, 5 anni fa. Va bene, facciamo girare, dai. Avanti Salvatore, allora cosa ci racconti? Come mai non sei sul 20 a fare prove? Comunque sento pochissimi, Eugenio ad esempio non lo sento, eccetera eccetera. Però vabbè, mi interessava giusto scoprire se almeno in queste condizioni funzionava il principio, così provo ad accorciarla un pochettino per farne una per i 10 metri e vedere che cosa tiro fuori. Vabbè, questo adesso è un periodo, devo pazientare fino a che non facciamo i lavori e finalmente potrò rimontare tutto e tirare tutto su. Capito? Comunque vi sento quasi tutti, Dai, riprendi tu, fai girare pure e rimango piacevolmente in ascolto. Ma che cosa ti è successo? Problemi alle antenne? Impermeabilizzazione sull'asse solare. E quindi siccome tutti i cavi, cavini e cavetti passavano nel cavidotto dal punto di arrivo, che è il parapetto, al torrino, quindi che è al centro dell'astrico solare, e quindi bisognerà togliere tutto quanto. Togliendo tutto quanto che ho raggruppato sopra il torrino, poi ho dovuto togliere anche dei tiranti momentaneamente, quindi ho abbassato il carrello e quindi niente, ho tutto sganciato. E per risolvere almeno momentaneamente il problema mi sto arrangiando in questa maniera qua. Qualche antenna me l'ha data Walter da montare sulla ringhiera, quella dei 40 ad esempio, va discretamente bene fino a che non scende l'umido, perché poi non va. Ne ho provato una per la 27, non va, se non c'è piano di massa, insomma, del manco. Questa qua è stata la soluzione, quindi fino a che non verranno fatti i lavori non potrò ritirare su tutto e riandare a un aereo con più tranquillità, capito? Cappa, ce l'ho detto, io l'avevo studiata così, l'ho detto, perché ci mette il cavo in facciata, non fa la facciata, mi fanno togliere tutto. E allora fatti scendere dentro il pluviale, dentro un tubo in polietilene leggero praticamente, di quei corrugati grossi leggeri, messo lì dentro e arriva fino alla finestra, proprio il corrugato esce proprio dal foro, alla testa della finestra, entra nella mia finestra, quindi non dà nessun fastidio. Sì, ti ho sentito provare quell'antenna in 40 metri con Marco, quando era la settimana scorsa. Va bene, andava bene, il segnale era ottimo, 9.15, 9.20 arrivati, quindi va bene, però io ho l'antenna dei 40 proprio puntata verso la tua zona, quindi forse anche per quello. Va bene, ok Sabato, siamo qua, se ti vuoi trattenere ci fa piacere, io faccio girare intanto la ruota. Avanti Gianni Lubrofetta, poi fai girare per Gianni Doppio Room K. Ok, scusatemi, mi sono dovuto staccare un attimino per sbrigare una cosa veloce, quindi mi sono perso alcuni passaggi. Vabbè. Ho sentito l'ultimo passaggio di Salvatore, vabbè. E niente, quindi lanciamo la palla a Doppio Room. Ma ci ha detto che non è andato a scaldarsi la frittata. Riesco appena a tirarti fuori dal rumore, Eugene, quindi a malapena riesco a capirti. per adesso va bene così, l'importante è che bene o male riusciamo a sentirci, poi per il resto già si acconta pario, come si dice, e quindi per il momento va bene così, aspettiamo la primavera, speriamo che sia portatrice di cose belle per tutti, e quindi siamo in attesa, dai. Avanti, sì, vabbè, dai, piano piano, io qua non ce l'ho un'antenna da darti, sono tranquillo che te l'avevi già regalata, io ne avevo una di scorta, l'avevo data, se no anch'io in campagna non ho montato niente, perché non ho comprato niente, non mi interessa niente, c'è un'antenna, anche lì c'è un dipolo praticamente, un dipolo per la 27, con un ricevitore FRG 9006 e ascolto con quello, e poi c'è una bibanda per le due, per le due, per il momento va bene così, per intanto attività non le faccio, perché ancora non sono stabile, quindi lasciare le radio lì non mi va, capito? Però quando sarà ci pensiamo. Ok, avanti, già riprendi Doppio Room, riprendi tu. Sono senza parole, sono a dolori, sempre con questo stato di sciacca, che non sono ancora stato. Cosa fa la parte di lui? Io ho fatto le filtrazioni ad Alghero, all'ospedale Marino, con professor Fuis, e ti dico, le ho fatte già dall'anno scorso, non mi è più venuto mal di schiena, le gambe ce li ho molto più, mi sento molto più leggero. Qualche chilo l'ho dovuto scendere perché purtroppo me l'aveva detto il medico che ero troppo ciccione, quindi sono sceso e sto molto meglio. Ogni tanto mi viene questa fitta dietro la schiena quando sto molto inchinato, però quella è un po' di lombalgia, niente di che, prendo una bustina e mi passo. Ma prima io, ma sai quante volte me ne sono rientrato al lavoro perché non riuscivo a stare, manco a sedermi in macchina, era una cosa allucinante. Avevo fatto 6 o 7 filtrazioni, proprio con gli aghi, e mi aveva fatto molto bene. Adesso sto soffrendo un pochino, inizialmente sembrava un torcicollo, e invece purtroppo è la cervicale. Però già, quella ce l'ho, me la tengo e ciccia. Quindi, Mangela, tu non hai fatto il mio lavoro. Io so che cosa fai e cosa facevi anche prima, che era ancora più pesante di adesso. Quindi, colpi li hai preso. Sicuramente molto più di me, perché la verità io stavo molto più in macchina, in piedi, però pesi non ne prendevo pochi, era più lavoro di controllo, di routine, capito? Però tu lo so cosa facevi. Quindi anche quello ha influito tantissimo, capito? Certo, quest'opero mi fa sempre male, è quello di mettere svolutate in due, di mettere in mille comande, prendere uffici, quello che faccio secondo loro di tutti i compiti di questo. Già, ce n'è in lunga a tirare giù la spalla e tirare la berana a Bienaveva, a intrazzire, a fare annira dalla sponda idraulica, a salire, a scendere, lo so già, il mio lavoro, il tuo molto molto molto pesante, quindi sicuramente hai strappato già da prima, hai tirato molto da prima e adesso ne resenti che non sei più un ragazzino, è normale, io la cervicale ce l'ho per l'umidità, per il freddo che ho sempre preso, ma non per altro, capito? Dolori ce li avevo, ma dolori superficiali, sicuramente anche quello dal freddo, dalle cose, ma tu sono proprio strappi, forza che facevi per il tuo lavoro, per fare le cose, quindi è chiaro che adesso ne stai risentendo. Falle già le filtrazioni, per fare il coso dal medico. L'Alghero sono molto bravi all'ospedale Marino, a me me l'aveva detto mia sorella, anche al policlinico erano bravi, al policlinico erano molto bravi, ma purtroppo è Sarrado, cosa vuoi ti dica? Oggi sta ancora andato, io un amico che lavora, sta ancora andato. Qui fa il contattino sull'operatoria e mi ha detto che sta lavorando 2 volte alla settimana, dice. Lui come si fa a campare così? Qui è solo, non c'è addirittura, niente, si deve campare con lo stipendio che guadagna lui e con lui. Ci mettiamo in più la vecchiaia, che carogna. Io ho lo stesso infermiere che qua nel mio palazzo, Graziano, che anche lui lavora in sala operatoria, 2 volte la settimana anche lui, ancora non li hanno accettato gli ammortizzatori sociali, non si sa che fine devono fare, ed è del 57 lui, più grande di me, quindi figurati, più grande di noi. Le manca un paio d'anni andare in pensione, anche lui non rientra neanche con quota 100 perché non c'ha 62 anni, capito? Quindi no, 62 ce li ha forse, li ha già fatti, però non c'ha i 38 anni di contributo, quindi è un bel casino, vabbè, lasciamo perdere se non ci vede il malumore. Allora io rilancio per Marco, se non riprendi tu Eugenio. Marco, ci sei, te l'hai mangiata questa frittata? No, vai Eugenio, l'hai vista la moto? Tante belle cose, alle prossime, vai Robrofè. Ciao Eugenio, ma appena sono riuscito a capire determinate cose, adesso quest'ultimo passaggio proprio per quanto mi riguarda ti sei farato, quindi Va bene così, un saluto e un abbraccione, alla prossima. E niente, Marco starà merendando, come al solito. Ormai il suo orologio biologico è tarato così e lo lasciamo merendare. Niente, volevo, se Salvatore è in ascolto, volevo sapere come gli arrivavo. Sì, sono in ascolto, mi arrivi 9:20 quasi. Grazie mille, grazie Salvatore. Ok. Bene meda. Appena si potrà metteremo un antennino un po' più performante, come si dice. Prima mi devo chiamare l'antenna che porto in capo, da poi chiamiamo che si deve rubare a Chino. Avanti già. Sì, dai. Un attimino, mi sembra che ci fosse qualcuno sul fondo. Avanti, vuole entrare. Mi sembra che Giuseppe da Alchetti. Giuseppe, tu sì. Ciao Giuseppe, sentito, dai. Anche se sei bassino, Santiago 3, Radio 3, se posso dare. Non so come ti ascoltino gli altri. Tu che ti auguro buona serata. Avanti. Diario Profeta, come l'ascolti da Luca Bialghero? Assolutamente zero, non riesco a sentirlo, proprio un borbottio impercettibile, proprio in mezzo al rumore di fondo, quindi non riesco a sentirlo. Comunque salutoni, se mi senti, oppure qualcuno farà rimbalzare la palla. Salutoni, ben sentito e niente, te la giro per Claudio, avanti Claudio. Via, positivo. Io saluto Giuseppe, ma è una cosa impossibile, è impossibile. Non so che cosa è combinato, cioè Santiago 9 arrivavi qua. Mi arrivi quante Gianni? Impossibile, una cosa veramente. Anche a me già sta arrivando Santiago 3, in mezzo al QRM, cioè aveva un segnale quando abbiamo fatto i controlli lì da Alghero qua a casa, Santiago 9. Giuseppe, io ti sento a malapena, ma è mai possibile? Cioè cosa hai combinato? Ma dove? Dove il segnale di 8? Dove? A Osio. A Osio? Ma cioè se stavi parlando con Francesco con Uranio, cioè è davanti a te, c'è una zona, ma non hai niente da invidiare Osio con la mia postazione? Oh Giuseppe, cioè Santiago 9 arrivavi quando io sono andato via da là. Qualcosa è successo per forza, perché arrivi Santiago 3, è allucinante, boh. Avrà passato la partenza. Poi non lo capisco quando parla. Avete queste cose portatile, non lo so perché, non so li viene male a che cosa. Aspetta, solo che devi parlare. Giuseppe, ripeti che non abbiamo capito bene cosa hai detto. Ho detto, ripeti ciò che hai detto, che non ti abbiamo sentito bene, Giuseppe. Prova a ripetere, a vedere, mi ascolto così. Non è che ho toccato il palo del volume di vacca. Magari spolverandolo, facendolo, sai, tante volte capita. E qua bisogna andare a controllare anche sta parigia, sicuramente ha toccato la potenza. Non lo so già, non lo so, io quando sono andato via da lì era tutto perfetto, da tanto che non vado all'albergo, perché sono anche incasinato eccetera, ma appena ho 5 minuti ci voglio andare con lo strumento mio a controllare, perché abbiamo fatto le prove la sera che poi da casa arriva Santiago 9, poi ci sentivamo sempre, molto forte, perché io per Alghero poi non ho problemi, adesso mi arriva quanto a te, forse qualcosa in più, 3-4, ma proprio in mezzo al QRM. Ma il mio segnale, a me mi senti bene come sempre, Giuseppe? Ma non bene, Gabriele 2. Cioè, ma ti rendi conto che ti arrivavo 9:10 e mi senti Santiago 8? Quindi c'è qualche problema, sia in trasmissione che in ricezione, Giuseppe. Per forza c'è qualcosa che è successo, dal vento, dalla pioggia, abbiamo avuto un inverno terribile. Cioè, qualcosa è successo, Giuseppe, non può essere. Questo tu lo devi sapere, io ne abbiamo messo di antenna, il cavo era uno collegato al base, alla radio quella base che ti ho dato io, e altro poi io non lo so, tu se hai toccato qualcosa, se hai fatto modifiche, non lo so, qua c'è Santiago 4, mancano 5 segnali, 5, sono tanti, poi mi stai dicendo mi ascolti Santiago 8, quando mi davi sempre 9 passato, 9:05, a volte anche 9:10, ma la mia potenza è sempre questa, io sempre con 20 watt vado col 4:40, non è che lo tiro su di più, quindi c'è qualcosa che non va, Giuseppe, bisogna controllare nuovamente tutto e rimettere a posto le cose, perché con così è impossibile ascoltarti, eh. Se io non ti rispondo, non pensare che non ti voglia rispondere, ma a volte non ti sento se c'ho QRM alto, capito? Vai, doppio room. Sì, è così, io qui sentivo Santiago, non permetto, eh. No, però, già lo sentivo bene lo stesso. È strano, Giuseppe, stai uscendo così basso. Sicuramente ha preso la quarantena, qualcosa deve essere successo, c'è stato qualche campo. A volte io ho detto capisco, Giuseppe. Guarda, volevo dire, come ti sta arrivando il segnale, Giuseppe? Guarda il segnale, come ti arrivo io. Ma era così. Solitamente anche l'altro così, per me. Sì, cazzo, ma si è agganciato. È vero, cazzo. È vero, cazzo. Io lo vedo, la segnale mi dice, ma è che... lì bisogna dargli a lui il segnale normale, io ho sempre 20 watt e con 20 watt gli arrivavo oltre il 9, adesso mi dà 8 e lui mi arriva a 4, mi arrivava a 9, quindi mi mancano 5 punti, capito? Quindi qualcosa c'è, io questo paragone sto facendo, perché se salgo la potenza il segnale da lui aumenta, ma io sono sempre con 20 watt, come sempre lui mi ha ascoltato. Il problema è che lui si è abbassato notevolmente, quindi è un problema, capito? Vabbè, vedremo Giuseppe di rimettere a posto le cose, lasciami liberare e poi ci faccio un salto una mattina con lo strumento e vediamo un po' se l'antenna ha qualche problema, se si è staccato IPL sopra, voglio vedere un po' perché è impossibile, hai perso 5 punti S, vabbè. Avanti, un profetta. Bene. Magari si è mullato qualche cosa. Sicuro. Oppure, come stava dicendo Gianni, è stata diminuita, involontariamente è stata diminuita la potenza. Vabbè, comunque, niente, io qua proprio sento solo QRM, non sento assolutamente nulla. Vediamo se Marco è rientrato. Marco lì! Transato abbiamo. Ma che? Sono a metà e sto arrancando, dai. Qua Giuseppe arriva a 5, modulato 6. Diciamo che è abbastanza pulito. Lo sento pulito. E la voce è un po' così. Non la modulazione dell'apparato, è la voce un po' così. Però arriva, dopo tutto arriva bene qua. L'ho sentito molto molto peggio, tipo 3-2 di segnale nel corrermi. Va bene, dai, riprendete voi che io sto macellando. Marco, è simile alla tua quando mangi la voce. Davvero, pare un zio. Sì. Io sto sempre mangiando e quindi... quasi sempre. Che di cosa stavate parlando? Che mi era sentato. Abbiamo avuto un'invasione di campo di gatti qua. Aspetta. Ehi. Ascolta, controlli un attimino per favore, così come power, con 5 watt giusti, 5 watt proprio come picco. A quanto scendo? Sì, quasi 9, 8 e mezzo. Ho salvato meglio di prima. Perché ho visto che mi stava, siccome c'ho il bifolo a neanche a 2 metri di distanza, c'avevo un po' il rientro di audio. Allora ho detto, aumentando un po' di missile gain e diminuendo la potenza. Sono 6-7 watt. Ed è meglio, vero? Ottimo, modulazione chiarissima, bellissima. Poco fa ribasso anche di radio. Il segnale sta oscillando tra l'8,5 e il 9. Perfetto, quindi riesci a sentirmi. No, il tuo è sempre stabile, vabbè, però niente a confronto quando avevo la Game Master. Sono contento comunque di riuscire a prendere un segnale decente. Se ci sta 9,15, qualche picco anche a 9,20 riesco a rilevare. Va bene, quindi questo è il setup giusto per la città. Ok, grazie di nuovo. C'era Gianni, mi sembra. Gianni lo più rumo a te. Scusa che stavo messaggiando, se vedi il filo del discorso di qua, perché me l'hanno mai detto e stavo rispondendo. riprendi il clavo, dai. Hai visto cosa usa quella signora per lavarsi? Il coniglio. Sì, Salvatore, lascia con i tiri conti, io sono distante, là. Sei più vicino a Gianni, doppio rumo, a Gianni Rubrofetta, a Marco, che lì ha un tiro di schioppo da te, quindi io sono molto più distante, perciò è un ottimo segnale 9 qua, va bene, va benissimo, ok. Quindi Marco, questa frittata l'hai fatta, te l'hai mangiata, cosa stai facendo? Ma la sto guardando, metà, diciamo io l'avrei fatta meglio, cioè, mamma o mette un chilo di sale o non ne mette, cioè sbaglia il sale, capito? Ma si può correggere, metto un pizzico di sale, niente, sì, qua è inutile dirlo, Salvatore a bomba, io sono in via Nizza, quindi siamo troppo vicini anche, e quindi è 9 più 20, tendenza a 9,25 già, ho salvato. Sono, ripeto, guarda, parlando, ho trovato. No, ma va bene, beh, è normale, sei vicino a te, Marco. Anche vicino a Gianni, doppio Roma, Gianni Brofetta, siete tutti là, più o meno lì. Io una volta ero in via di San Francesco, lì nella casa di Salvatore già Salove, avevo il portatilino e non riuscivo neanche a capirlo, stava parlando, non riuscivo neanche a capirlo. Figurati, eri in VHF, non mi ricordo chi stavi parlando, non riuscivo manco a capirti di quanti sacco, ma a 100 metri ero da te. Una parte sì, l'ho divisa in due, una venduta, l'altra ancora è da vendere. E comunque io ce ne sono di richieste, basta aspettare un pochettino e si conclude. Poi c'è capita un movimento, hanno aperto da poco un mare in viale Trieste. Un movimento, soprattutto i giorni vicino, c'è corrispondenza della struttura del teatro, incredibile, quel ponte che c'era di fronte, che non arriva praticamente mai, e si sta mordendo l'unghie per l'occasione a tutto questo persa, perché quello che sta aspettando ovviamente è giustamente il suo contatto. Qua Salvatore, io ci trovavo poco, prima ci andavo molto di più perché arrivava la posta della casa di riposo del mio cognato lì, l'ufficio era lì, qui andavo io a ritirarla, poi gliela portavo nell'altro ufficio, non trovavo mai posteggio, mai, infatti andavo sempre in moto, la verità, è una cosa spettacolare perché la casa in volte già l'ha vista, a dire favola è poco, però io non ci avrei mai abitato lì sinceramente. Assolutamente, non c'è posteggio, un casino. Lì o hai il garage o hai qualcosa, altrimenti è veramente micidiale. Ti immagini, mio cognato è stato inverno, per andare in ufficio andava sempre col motorino o con la bicicletta elettrica, perché lui c'ha una macchina grande e non c'era mai posto. Ha preso tante di quelle multe lì in via San Francesco, una cosa allucinante. Quindi non mi interessa, se rimane lì, quando si vende, una parte l'abbiamo già presa e pazienza, avrei preferito venderla tutta intera, poi sono state anche altre spese per fare praticamente un altro ingresso per separare i due appartamenti, di quelli inizialmente erano due, poi sono stati fatto tutto uno, infatti era più di 200 metri quadri, 250, 240, una cosa del genere. E poi è stato diviso, mi pare 120-120. Va bene, faccio girare per Rubrofetta, vai. Vabbè, già siamo. Vabbè, CR7. Vabbè, ciao Claudio, buonasera, buonasera a tutti quanti. Doppio Ru e compagnia cantante. CR7, grazie a lui che un po' vi sta salvando. Perché senza CR7 siete più deboli dell'anno scorso. Certo, se domani non segna ti rimani una recci. Ma a parte scherzi, è così o qua. Tu togli il CR7, tu vuol dire da questa squadra. La Juve è più debole dell'anno scorso, questo mi fa. Sono d'accordo con te, però non vengo giù. per quello che è stato preso e pagato per segnare, cazzo non sta segnando, vabbè, ci va bene, luci, non parliamo di calcio, avanti Gianni Lu Profeta, lo senti buonanotte, e a Fabrizio Mascherato. Sì, capa, non ho ben capito chi è, comunque salutone, ben entrato, e niente, buonasera anche a te, ho visto che il calcio qua fa per la maggiore, quindi bene, bene Meda, avanti l'amico. Ciao Gianni, il professa, mi hai sentito per la tua volta, ciao, ti hai sentito, avanti già. Sì, allora, io sono proprio lui, se no ci confondiamo. Sì, vabbè, a me non interessa il calcio, me l'ha proprio tutto lì. Io guarda, forse per me non esisterebbe il calcio. Troppo marchio come c'è, sono abbastanza pagate, sarebbe sotto banco, non cambiare. No, prima se lo seguivo un po' prima, adesso proprio non è più seguito. Vedo troppo marcio e bene. Andrà bene. E allora Fabri che si racconta, la pesca come va? No ragazzi, non ci sta andando, per niente, perché non c'ho tempo, dai, di dedicarmi a quella roba lì, capito? Non confermo, se la me un 3 mesi non ci vado. Io invece sono i figli, che non ci sta andando, avevo fatto quelle giornate belle qua, ma le sono perse. Perché ho un problema, mi deve arrivare a roba a casa e se non mi trovo poi è un macello. Aspettando questo fatto che mi arrivi perché sono documenti e praticamente non posso cercare la casa, secondo me arriva questo fatto non posso fare. Ha ragione, un pacco di soldi. No, ho fatto di cose, di documenti. Ok. Occhio ai corrieri, Tanto già, ma chi è che avrà di robot ne rubato la sera? Dopo le primo pomeriggio non consegniamo più me. No, anche la sera consegnano, io la volta la bottina mi ha perché mi arriva. No, mi arriva tanto a posta, claro. È la carta d'identità che ho fatto e mi deve arrivare, mi serve. Mi serve perché la uso io la carta d'identità, in molti posti. E non serve più la patente, già che è un casino a farla. Cioè ci sono gli appuntamenti anche qui adesso. Ma lì a Corte Santa Maria si è andato? No, la circoscrizione, ma anche a Corte Santa Maria la stessa cosa. Io l'avevo fatta, ho fatto tutta una mattinata. Vabbè, lì ci lavora mio fratello, là ci sono i cosi dell'Asi, lui con quello del... come si chiama? Con i fattorini del comune, che stanno lì, si conosce, quindi... Ha girato tutta Edo e alle due me l'ha portata a casa. E anche io c'ho un amico alla circoscrizione, infatti ce l'ho per quello, se l'ho aspettata anche tu. Oramai, se non fermo così non faccio più. Va bene, ok. No, beh, se è posta sì, perché anche le raccomandate le stanno portando alle 6 di sera, non si non prende più nulla con questo servizio postale. No, pensavo che era corriere SDA, quella roba lì, allora... Fino a una certa ora lavorano, poi non consegnano più, capito? Marco, riprendi e fai girare. Buoni corrieri, ve li raccomandomi. Bartolini doveva consegnare una cosa oggi, no? In teoria. Col tracciamento ho visto che hanno posticipato a domani e ho detto, vabbè, niente di che. Stasera mi chiama il negozio dicendo che loro avrebbero tentato di consegnare dalle 11 alle 12 e io ero a casa fino alle 3:15 di pomeriggio, 3:15 di pomeriggio e hanno scritto destinatario sconosciuto oppure che non hanno trovato la via e quindi hanno rimandato al 13, quindi a dopo domani. Ma per carità, ma... non voglio scantonare. Ho detto no, guardi, l'indirizzo è giusto, ho detto, poi c'è anche il numero di telefono, viene il corriere, se davvero doveva consegnare si poteva degnare di chiamarmi e dire guardi che ho bussato adesso, dov'è lei? È a casa? Certi autisti sono degli estofanti, proprio degli estofanti a tutti i riferimenti, meno male che roba da pochi soldi, ma metti che sia uno smartphone da 800 euro. Bartolini, no, guarda, noi allora abbiamo tirato il motore del cancello, praticamente oggi è lunedì, è arrivato stamattina alle 10:15 e è stato ordinato dalla FAC mercoledì della settimana scorsa, quindi sono stati velocissimi, capito? Hanno avuto il numero di telefono, infatti non mi hanno chiamato, io ero già in campagna e sono venuti e hanno lasciato il pacco del motore. Martolini è abbastanza, non so, vabbè, evidentemente non vi siete accordati bene, dai, però a me mi avevano dato quei giorni lavorativi e quei giorni lavorativi hanno rispettato, perché noi abbiamo ordinato mercoledì mattina e quindi l'ordine mercoledì è stato preso in carico, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica non lo conti, sono tre giorni lavorativi, sabato e domenica non lo conti, lunedì mattina è arrivato il pacco. E poi questo ricordo è arrivato un pacco e doveva arrivare dopo tre giorni, erano passati così qua, e due giorni non era arrivato, allora ho chiamato la ditta e ho detto, beh, io adesso chiamo e vediamo un po'. Ha chiamato il corriere e mi ha detto che in settimana non portava, che c'era stato il 10, che forse mercoledì la faceva. Poi lo sai che mi è arrivato lo stesso giorno, sì, io me ne uscivo e non mi prendavo la casa. Sì, perché sono un po' così, però il mio era regolarissimo, perché ripeto, è stato ordinato mercoledì mattina della settimana scorsa, quindi siccome ho lavorato nel trasporto, l'ordine è stato preso in carico subito, il corriere è passato mercoledì pomeriggio, quindi è partito direttamente mercoledì il pacco da Milano, ed è tre giorni lavorativi, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, non li conti, lunedì mattina, stamattina, alle 10:15, 10:20 è arrivato il picco. Riprendi, Fabrizio. Ecco, ma chi è questo Marco? Marco Frondo? Marco, sì, Pipistrello. Non lo sento solo il bip e basta, come mai? Guarda Pignata. No, qua arrivi al solito, Fabri. Qua arrivi. Adesso ti sento, tutto a posto. Io Fabrizio. Me, l'Ubrofè. Fabrizio è comunista, mi. Sinistroide di quelli persi proprio. Cos'è che sono io? O di quelli? Sei una zecca rossa, Fabrizio. No, negativo, no. Avanti, qua. Non sei attento tu. Ma il comunista Fabrizio. Fabrizio dei nostri. Va bene, forza Varici. Almeno funziona tutto bene. Poi, ma non è possibile. Sono le 8 meno 10, meno 5 sono. Ma mazza. Avanti, Ubrofetta. Bene Meda. Fabri, come ti arrivo lì da te? Soprattutto vorrei sapere più o meno da che zona stai modulando. 1-2-3, 1-2-3. Guarda, qua arrivi, Santiago 05, zona passata. Zona? Zona passata, proprio in alto la punta. Salvatore, hai copiato? Sì, passata, giusto? No, scusa, no, tu non te sono Gianni Profeta, ho detto passata, la punta alta. Bene Meda, bene così, grazie. Tu mi ascolti? Sì, ottimo e abbondante. Vabbè, perché ho puntato la direttiva verso Sasso, avanti Claudio. Gianni, riprendi. Ehi, a Claudio magari sicuramente si è assentato per portare il cane giù. E niente. Mi sa che tra poco lo raggiungo anch'io. Niente, dai, facciamo entrare a Gianni, doppio room. Avanti già. Tutti caduti. Cazzo, blackout generale. Bobo, Marco, tu ancora dici? No, è che quando si parla appena di politica si defilano tutti. Si defilano perché non vogliono dire cosa hanno votato. Quindi cos'è, vergogna? Io già non vado più a votare, guarda la scheda la straccio, ho appena rifatto il coso lì alla piazza Santa Caterina, mi sa che lo straccio, non vado più, non ha senso ormai, non ha più senso. Bisogna vendere l'Italia agli arabi, ve la diamo, capito? infatti, dobbiamo vendere. Vendere per guadagnare. No, io mi stavo mettendo, dicevo la tuta, mi stavo mettendo i pantaloni. E così adesso fra un po' scendo a portare a Filippo. Ciao, sono qua, Rublofer, non ti preoccupare. Mi, Marco, attacca, dico, con Fabrizio, mi date quasi vedo in politica. Aspetta il telefono. Ma che fare con i comunisti? Cazzo di tante comunista. Allora, Renziamo, quello è del PD. Forza Varici. Vai, Rublofetta. Cane Rublofetta. Capito. Stato, andiamo e buttiamo un'altra cistella di latte. Come mangiamo stanotte? Oh, a posto. 5.000 litri di latte in terra. Aspetta, sto guardando il trekking di Bartolini, mi è arrivato Ivan, quindi vi saluto, dai, facciamo un giro. Data 11/3/2019. Destinatario sconosciuto, parra incompleto, e te vegane ciego. E sì che roba, eh? PayPal, dove i dati sono sempre quelli. No, secondo me questo trucco l'hanno fatto perché avevano già detto che avrebbero posticipato la consegna, no? Allora hanno messo la scusa, destinatario incompleto, sconosciuto. Adesso hanno posticipato di nuovo a dopodomani, no a domani. Fanno quel detto che seguo anch'io. Non rimandare a domani ciò che puoi benissimo rimandare a dopodomani. Vabbè, c'è stato, mi pare, o giovedì o venerdì c'è la sciopero dei trasporti. Quindi sicuramente è per quello che hanno posticipato. Quanti? No, può essere, può essere. Può essere, però non dicano allora destinatario sconosciuto incompleto, no, perché ha chiamato il negozio, già era roba che prepagata, comunque non era in contrassegno. Ho detto no, guardi, qua siamo centro città, conosciutissima, c'è anche persino il nome sul campanello fuori. Ho detto, qui, e poi c'è il numero di telefono per il corriere, che quando vuole si può degnare di telefonare. Se dovessi non essere in casa, va bene. Oh, detto ciò, dai, vi saluto, sto scendendo. Ciao Salvatore, doppio room, il profeta, Fabrizio, Claudio, tutti gli orecchioni, gli ascoltatori in ascolto. Dai, ci sentiamo domani, ciao. Ciao Marco, ciao. Gianni, vuoi riprendere? Dai, così chiudo anche io perché è tardi, mi si sta moccando. Vuoi riprendere già? Adesso dal telefono, non le sentite la sua valutazione? No, non passa qua con Marco. Oh, Marco è 9.30, Gianni è 9.20. Dai, e allora mi chiacchierate voi, io se ci siete riprendo dopo che porto un attimino il cane giù, dai. Li prendi tu Fabrizio, io mi allontano, ok? Un attimo là, anche io sto chiudendo, vi saluto tutti cordialmente, ciao Claudio, ciao a tutti gli altri amici, vi saluto, vi vado a portare in camera. Era un telefono, scusate se mi avete chiamato e non ho risposto. Ehi, già, dai, ci aggiorniamo allora. Più cordiale buonasera a tutti, a domani se coincide. Ciao Fabrizio, Gianni Rubrofetta, Marco, Salvatore che dovrebbe essere in quel Rix e chiunque fosse su 10. Ciao a tutti, a domani, ciao. Sì, ciao Claudio, buona serata. Ci sentiamo alle prossime. Ok, avanti Gianni Profeta. Capa. Ok Fabri, anch'io vi devo lasciare, devo sbrigare una cosa, hanno suonato il campanello di casa, quindi devo andare a sbrigare una cosa. Un saluto a tutta la ruota, ci si aggiorna prossimamente, ben sentiti tutti e buona serata a tutti, alle prossime, ciao ciao. Ciao Gianni, me l'ascoltate, sentiamo le prossime. Non c'è rimasto più nessuno allora chiudo anche io, vado a mangiare e ci sentiamo alle prossime. Ciao Fabri, un abbraccio, vai, fate sentire un po' prima, perché noi, io Gianni, a quell'ora, verso quest'ora, vai, andiamo a portare i cani, capito? Ma se tu entri verso le 6 e mezza, alle 7, un'oretta di chiacchierata ce la facciamo. Ciao a tutti di nuovo, grazie delle due chiacchiere, a domani, ciao. Ehi, Claudio, ci sentiamo, dai, stiamo bene alle prossime.